di fame, come vedremo bene dopo, nel 1943, proprio a causa della condizione che l'Europa stava vivendo. Ecco, direi che Simone Weil, di tutte le cinque figure spirituali che ho scelto per interpretare questo tema, è la più contraddittoria, perché in lei si possono trovare pagine di luminoso amore per il mondo e per la vita, accanto ad altre di segno opposto. E se dovessi paragonarla a un pittore, penso che potrei fare il nome di Caravaggio, Rembrandt o Georges de Latour, che era un francese come lei. Ecco. Però se c'è una cosa che appare, che la contraddizione non è necessariamente un segno negativo, al contrario. Nella misura in cui è teorizzata, la contraddizione ha la capacità di portare il pensiero al cospetto del chiaroscuro della vita, che è meraviglia e che è terrore nello stesso tempo. E Simone Weil, come già Florensky l'abbiamo visto ieri, teorizza esplicitamente la contraddizione. Ascolteremo infatti adesso un suo pensiero al riguardo, tratto da un testo del 1941 che si intitolava Qualche riflessione sulla nozione di valore. Quanto alle contraddizioni interne alle dottrine, ogni pensiero filosofico ne contiene. Ma ciò non è un'imperfezione del pensiero filosofico, né anzi una caratteristica essenziale, senza la quale non vi è che una falsa apparenza di filosofia. Perché la vera filosofia non costruisce niente. Il suo oggetto è già dato e sono i nostri pensieri. Essa ne fa soltanto l'inventario. Se nel corso dell'inventario trova delle contraddizioni, non dipende da lei sopprimerle. Le contraddizioni che la riflessione trova nel pensiero quando ne fa l'inventario sono essenziali al pensiero. Si farebbe un progresso decisivo se ci si decidesse a esporre onestamente le contraddizioni essenziali, invece di cercare inutilmente di evitarle. Le contraddizioni sono essenziali al pensiero. Ecco, chi può dire una frase così? Ma può dire qualcosa di questo genere un pensatore. E infatti Simone Weil questo era, innanzitutto, una filosofa. Simone Weil è stata una dei maggiori pensatori del Novecento. È nata a Parigi, nacque a Parigi il 3 febbraio 1999 e morì a soli 34 anni nel 1943 in Inghilterra. Siamo nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Era nata in una famiglia ebrea, il padre era un medico ed era, si chiamava Bernard Weil di per sé, perché era originario dell'Alsazia, poi però giungendo in Francia disse no, ci dobbiamo chiamare Weil, esattamente come è la pronuncia francese. Quindi, siccome questo lo dico perché spesso si sente dire Simone Weil, ecco, la pronuncia più corretta in fedeltà alla scelta della famiglia è alla francese, quindi Simone Weil. Anche la madre ovviamente era ebrea, si chiamava Selma Reinhertz, proveniva da una famiglia molto colta, molto ricca. La caratteristica di Simone Weil è che a lei capitò di nascere accanto a un vero e proprio genio, perché il fratello André, 3 anni maggiore di lei, divenne un matematico di fama internazionale, un'intelligenza precoce, brillantissima. E probabilmente si deve anche a questo, il fatto che Simone Weil ebbe una crisi mentre era nell'adolescenza, perché a un certo punto si ritenne scarsamente dotata a livello intellettuale, lei che invece è una dei geni più luminosi che il Novecento contiene. Ma devo dire però che si riprese presto, perché frequentò con successo il miglior liceo di Parigi, preparò il concorso per la missione alla Normale, a 19 anni lo vinse, venne ammessa, a 22 conseguì la laurea in filosofia e l'abilitazione all'insegnamento. Ecco, una cosa da dire a Simone Weil, che lei, ne sto parlando come di una figura spirituale, ma lei non fu all'inizio, fin dall'inizio della sua vita, una persona che coltivava la dimensione religiosa, al contrario. Quando una compagna di classe, si convertì al cattolicesimo, questo fu l'occasione per rompere l'amicizia con questa compagna. E poi un'altra cosa da ricordare fu che per Simone Weil la vera importanza consisteva nel contatto con il movimento sindacale, con gli ambienti politici di sinistra, nel contatto con gli strati più umili della società, al punto tale che lei decise di andare a lavorare in fabbrica nel 1934, cessò di fare l'insegnante e andò, si fece assumere alla Renault. In realtà poté resistervi solo un anno perché non era decisamente portata per il lavoro fisico. Fu sempre questo senso profondo per la giustizia che la portò ad andare in Spagna come volontaria per la Repubblica durante la guerra civile. E peraltro lì si deve al fatto di un incidente, perché a un certo punto mise il piede nell'olio bollente di un'enorme padella, si deve a questo il fatto che poté tornare a casa viva, perché poco tempo dopo la sua compagnia venne sterminata da lì a poco. Nel frattempo però, e qui veniamo alla dimensione religiosa, il cammino spirituale si era fatto via via più intenso, fino a una vera e propria esperienza mistica, che nel 1938 Simone descrive con una frase diventata celebre: Cristo è disceso e mi ha presa. Nel 1938 ho passato 10 giorni nell'abbazia di Solesma, dalla Domenica delle Palme al Martedì di Pasqua, seguendo tutte le funzioni. Un giovane inglese cattolico mi fece conoscere quei poeti inglesi del 600 che vengono detti metafisici. Più tardi, nel leggerli, gli ho scoperto una poesia intitolata Amore. L'ho imparata a memoria. Spesso, nei momenti culminanti delle violente crisi di emicrania, mi sono esercitata a recitarla, ponendovi la massima attenzione e aderendo con tutta l'anima alla tenerezza che essa racchiude. Credevo di recitarla soltanto come una bella poesia, mentre a mia insaputa quella recitazione aveva la virtù di una preghiera. Fu proprio mentre la stavo recitando che Cristo è disceso e mi ha presa. Sono Vito Mancuso e in questo spazio di Damasco vi sto parlando di Simone Weil. Ve ne sto parlando come luminosa figura spirituale di amore verso il mondo. Il programma, dicevo, si chiama Damasco. Ebbene, questa che abbiamo ascoltato, nel brano letto poco fa, si può davvero considerare la via di Damasco di Simone Weil. Lei che era cresciuta in una famiglia agnostica, lei che aveva rotto l'amicizia con una compagna che si era convertita al cattolicesimo, ecco, lei scrive: Cristo è disceso e mi ha presa. È una via di Damasco, è una vera e propria folgorazione. Ma c'è una differenza decisiva rispetto a San Paolo e direi anche rispetto a tutti gli altri convertiti della lunga storia del cristianesimo. E qual è? E la differenza decisiva è che tutti i convertiti passano dalla folgorazione cristica, diciamo così, alla Chiesa, confluiscono nella Chiesa. Ecco, Simone Weil sceglie deliberatamente di non chiedere il battesimo e di non entrare nella Chiesa cattolica. Perché? In realtà qualcuno ha ipotizzato che negli ultimi giorni della vita lei chiese e ottenne il battesimo, ma gli studi più seri, le biografie più documentate hanno sempre negato questa circostanza. E del resto è lei stessa che scrive in una celebre lettera a un padre domenicano, lei scrive: la mia vocazione è di essere cristiana fuori dalla Chiesa, fuori dalla Chiesa. Quindi sì, cristiana, ma fuori dalla Chiesa. Ma perché Simone Weil dice una cosa del genere? E la sua risposta è chiara: perché la Chiesa non è cattolica di fatto come lo è di nome. Ora, cosa vuol dire cattolico? Tutti sanno che cattolico significa universale. Ecco, secondo Simone Weil ciò che manca alla Chiesa cattolica romana è proprio l'essere pienamente universale, cioè essere in grado di abbracciare tutti gli esseri umani di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Simone Weil non accetta, non vuole il battesimo, perché? Perché non accetta la condizione particolare, lei dice a volte persino settaria, che l'essere cattolici comporta. E separando di fatto in molti aspetti chi aderisce al cattolicesimo dal resto dell'umanità. Ed è questo il paradosso. Proprio una chiesa che si definisce cattolica, cioè universale, in realtà cattolica non è. Ed è per questo che Simone Weil dice: io non entro nella chiesa, non chiedo il battesimo. Ecco, questo è veramente l'elemento che deve far pensare con radicale profondità tutti i cattolici. Io sono un cattolico, sono all'interno della Chiesa, ci sono, ci rimango, ma questa dimensione dell'universalità che manca, della cattolicità che manca alla Chiesa cattolica così come realmente costituita, è come una spina nel fianco. E devo dire che io interpreto il mio lavoro teologico proprio in questa direzione, come spinta perché la Chiesa cattolica sia cattolica veramente di fatto e non solo di nome. Ecco, questa è ciò che Simone Weil ci consegna, è ciò che Simone Weil ha consegnato e continua a consegnare alla mia vita, ed è ciò che anche a voi che mi ascoltate io voglio proporre come fonte di profonda meditazione. Sono Vito Mancuso, qui a Damasco, e vi sto parlando di Simone Weil. Ve ne parlo come di una testimone privilegiata della dimensione spirituale del Novecento. Dimensione spirituale che significa amore per il mondo. Amore per il mondo non come contrapposto all'amore per Dio, come è nella tradizione precedente, soprattutto di tipo agostiniano, una tradizione che sottolinea con profondità il dualismo, la contrapposizione tra il mondo e Dio, ma amore per il mondo che è al contempo amore per Dio e amore per Dio che è al contempo amore per il mondo. Questa è la dimensione nuova che la spiritualità del Novecento ha portato e di cui Simone Weil è una dei testimoni privilegiati. Ecco, in particolare per Simone Weil, questo amore per il mondo si traduce come amore per tutti gli uomini di tutti i tempi, si traduce come esigenza di pensare l'universalità della salvezza. Si deve prendere così sul serio l'idea che Dio è padre di tutti gli uomini da portare a teorizzare la possibilità della salvezza per tutti gli uomini di tutti i tempi. Ed è ciò che Simone Weil con profondità, con rigore, teorizza nei suoi diari, teorizza nei suoi scritti, che sono di una bellezza e al contempo di un rigore geometrico veramente singolari. Quello che a lei sta precisamente a cuore è teorizzare che Dio è padre di tutti gli uomini e quindi non può non aver inserito da subito nella creazione la possibilità della salvezza per ogni essere umano. E infatti per lei la redenzione è presente sulla terra fin dall'origine. Per Simone il Cristo è presente su questa terra ovunque ci sia un crimine e una sventura. E quindi si deve affermare che il contenuto del cristianesimo esisteva prima del Gesù storico. Ora, tale universalità non riguarda solo i fedeli delle altre religioni. Questa è poi la cosa veramente spettacolare di Simone Weil, ma riguarda anche gli atei, anche gli agnostici, nella misura in cui le loro azioni e i loro pensieri sono abitati dalla giustizia, dalla rettitudine, dall'amore per il bene e per la verità. Ecco, come dire, il seme che è contenuto fin dall'inizio nella creazione. Il seme salvifico che è contenuto sin dall'inizio, cioè l'amore per la giustizia e per il bene e per la verità. Quando un uomo ospita dentro di sé questo amore per la giustizia, per il bene e per la verità e agisce di conseguenza, è salvo, è nel divino, è nella dimensione dell'eterno. Questo è ciò che Simone Weil continuamente ribadisce ed è ciò che a mio avviso deve portare a una ritrascrizione complessiva della teologia. Occorre rifondare la teologia alla luce di questo nucleo fondamentale, cioè che la salvezza divina è per ogni uomo di ogni tempo. O è universale il linguaggio del divino o non è. E di Dio non devono avere quaggiù altra patria che l'universo intero, con la totalità delle creature ragionevoli che ha contenuto, contiene e conterrà. Il nostro amore deve avere la stessa estensione attraverso tutto lo spazio. Ogni qualvolta un uomo ha invocato con cuore puro Osiride, Dioniso, Krishna, Buddha, il Tao, eccetera, il Figlio di Dio ha risposto inviandogli lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha agito sulla sua anima, non inducendola ad abbandonare la sua tradizione religiosa, ma dandogli luce, e nel migliore dei casi la pienezza della luce, all'interno di tale tradizione. Poiché in Occidente la parola Dio, nel suo significato corrente, designa una persona, quegli uomini nei quali l'attenzione, la fede e l'amore si applicano quasi esclusivamente all'aspetto impersonale di Dio, possono credersi e dirsi atei, sebbene l'amore soprannaturale abiti nella loro anima. Costoro sono sicuramente salvati. Li si riconosce dal loro atteggiamento verso le cose di quaggiù. Quelli che posseggono allo stato puro l'amore per il prossimo e l'accettazione dell'ordine del mondo, compresa la sventura, costoro sono tutti sicuramente salvati, anche se vivono e muoiono in apparenza atei. Abbiamo ascoltato delle parole veramente folgoranti. Quelli che posseggono lo stato puro, l'amore per il prossimo e l'accettazione dell'ordine del mondo, costoro sono tutti sicuramente salvati, anche se vivono come atei. Ecco, vedete, questa è qualche cosa, è una frase potentissima, che ancora, a mio avviso, è ben lungi dall'essere entrata nel patrimonio spirituale condiviso. Ma questa è esattamente la potenza del pensiero di questa donna che, oltre a essere una pensatrice, è una testimone, anzi si può dire che è pensatrice che ancora parla agli uomini di oggi, proprio in quanto è una testimone, una persona che ha sofferto sulla propria pelle, nella vita di ogni giorno, le proprie idee. Non ha teorizzato semplicemente, ha messo in pratica, come si usa dire tradizionalmente con un linguaggio religioso. Perché vedete, per Simone Weil la fede in Dio si esprime praticamente per mezzo di che? Per mezzo di un retto pensiero sul mondo e della retta azione in esso. Questo vuol dire credere in Dio, non credere in qualcuno che se ne sta chissà dove da qualche parte, ma avere un retto pensiero sul mondo e agire rettamente all'interno del mondo. Infatti Simone Weil diceva che l'oggetto della sua ricerca non era il soprannaturale. Il soprannaturale per definizione non lo si può ricercare, è al di là di noi che siamo solo natura. Ma l'oggetto della sua ricerca era questo mondo. Il soprannaturale era in un certo senso la luce per leggere adeguatamente i fenomeni di questo mondo e la logica che li lega. E ne viene che credere in Dio non significa professare dottrine di cose lontane, tantomeno partecipare a riti particolari, ma significa avere una determinata visione del mondo e compiere determinate azioni in esso. E il principale banco di prova di tutto questo teorizzare è dato dall'atteggiamento pratico verso gli altri esseri umani. E Simone Weil dice: si tratta in concreto di avvertire un obbligo verso ogni altro nostro simile. Un obbligo. Se l'uomo avverte questo obbligo dentro di sé, significa che è chiamato all'eternità. Questa è la dimensione, che tu vedi un altro uomo, tu vedi un'altra donna e senti un obbligo, senti verso di lui, senti che la tua relazione verso questa persona non è semplicemente di utilizzo, non è una cosa quella persona che stai incontrando, non è uno strumento, ma diventa un fine, per usare le parole del radioso imperativo della ragione pratica. Secondo Kant, agisci in maniera da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quelle di ogni altro sempre come fine e mai semplicemente come mezzo, dice Kant. E cosa vuol dire che noi dobbiamo considerare gli altri come dei fini? Significa esattamente avvertire un obbligo, cioè che noi nei confronti degli altri non abbiamo un atteggiamento semplicemente strumentale. La persona che avverte questa dimensione esce dalla logica normale del mondo ed entra nella dimensione dell'Eterno, ed è così che si è uniti a Dio. In questo senso amore per Dio e amore per il mondo sono precisamente la stessa cosa. Ecco, io devo dire che per quanto riguarda me personalmente, se continuo a credere è perché sento con profondità che la fede vissuta così è ciò che realizza perfettamente il senso di comunione con me, con gli altri, con la mia famiglia, con le persone che incontro. Non è qualcosa che mi aliena, ma è qualcosa che mi mette in relazione in una maniera profonda in una maniera più vera, in una maniera autentica. E questo è il vero e proprio banco di prova dell'essere uomini. La spiritualità del Novecento si caratterizza per avere introdotto una modalità nuova di pensare il rapporto Dio-mondo. Non più quella dualistica, se ami Dio devi odiare il mondo, devi disprezzare il mondo, ma quella unitaria. L'amore per Dio si traduce nell'amore per il mondo. Ebbene, Simone Weil è una testimone privilegiata di questo, ma vorrei aggiungere adesso un'altra cosa. La figura di Simone Weil è una grandissima provocazione alla Chiesa cattolica. Perché noi, quando parliamo di Simone Weil, ci troviamo di fronte a una mistica di primissimo livello. Lei che veniva da una famiglia agnostica, lei che si era formata nel miglior liceo di Parigi, che aveva conseguito il massimo dei voti alla normale, che aveva prodotto delle pagine di filosofia, di logica, di matematica di primissimo livello, ebbene questa donna così rigorosa dice: Cristo è sceso e mi ha presa. Questa donna testimonia nei suoi diari e nei suoi scritti di tre precise vocazioni mistiche, di tre precisi momenti mistici. Ebbene, in cosa consiste la provocazione alla Chiesa che la figura di Simone Weil è? Consiste nel fatto che questa donna, che ha avuto un contatto con la figura di Cristo così intenso e così privilegiato, sceglie di non entrare nella Chiesa. Questa è la questione decisiva. Fin quando la Chiesa non approfondisce dentro di sé, non si fa provocare da questa dimensione di una spiritualità che per rimanere pura, per rimanere veramente fedele alla dimensione della verità, decide di non legarsi a un'istituzione, ecco, fino a quando la Chiesa non capisce questa cosa, corre il rischio di diventare un fenomeno di divisione nell'umanità. Corre il rischio di non essere fedele al suo statuto, che è quella di essere cattolica, cioè universale, cioè la casa di tutti. Ecco, io ritengo che ciò che il nostro tempo chiede alla Chiesa oggi è questa apertura totale dell'anima, è questa capacità di abbracciare tutte le religioni, tutte le dimensioni, tutte le spiritualità. E questo non potrà non avvenire, se mai avverrà, in maniera indolore. Voglio dire, questo deve comportare una rifondazione della fede, una modalità nuova di pensare alla fede. È quello che io tento di fare. Io ho pubblicato un libro che si intitola Per amore, rifondazione della fede, nel 2005, e che verrà presto, tra due mesi, ripubblicato negli Oscar Mondadori con solo questo titolo, Rifondazione della fede. E a chi è dedicato questo mio libro? Ma esattamente a Simone Weil. Io ho dedicato questo mio libro a Simone Weil perché? Ma perché in lei vedo questa grandissima provocazione verso la fede. O si rifonda totalmente la modalità di pensare il rapporto Dio-mondo e quindi il ruolo della Chiesa, o questo nostro Occidente sarà destinato ad andarsene per una strada inevitabilmente diversa rispetto a quello istituzionale della Chiesa cattolica, e la frattura tra gli uomini e la Chiesa sarà destinata a diventare sempre più grande. C'è obbligo verso ogni essere umano, per il solo fatto che è un essere umano. Quest'obbligo non si fonda su nessuna situazione di fatto, su alcuna convenzione. Quest'obbligo è eterno, risponde al destino eterno dell'essere umano. Quest'obbligo non ha un fondamento, bensì una verifica nell'accordo della coscienza universale. È espresso da taluni dei più antichi testi che ci siano stati conservati. Viene riconosciuto da tutti. Il fatto che un essere umano possieda un destino eterno impone un solo obbligo, il rispetto. L'obbligo è adempiuto soltanto se il rispetto è effettivamente espresso, in modo reale e non fittizio. E questo può avvenire soltanto mediante i bisogni terrestri dell'uomo. La coscienza umana, su questo punto, non è mai mutata. Migliaia di anni fa, gli egiziani credevano che un'anima non potesse giustificarsi dopo la morte se non poteva dire: non ho fatto patire la fame a nessuno. E Cristo dice: ho avuto fame e tu mi hai dato da mangiare. Sono Vito Mancuso e siamo giunti alla conclusione di questa puntata su Simone Weil. Ieri abbiamo parlato di Pavel Slovensky. Oggi abbiamo parlato di Simone Weil. Chi era? In conclusione possiamo dire chi era questa donna. Era certamente una donna con doti intellettuali assolutamente superiori. Padroneggiava tutti i campi del sapere con disinvoltura. Chi di voi ha letto o leggerà i suoi quaderni, sono pubblicati da Adelphi, sono 4 ponderosi volumi, si rende conto fin dalle prime pagine che ci si trova di fronte a un genio. Un genio che si muove sul terreno della fisica con la stessa scioltezza con cui si muove sul terreno del greco classico, traduce di prima mano Platone, e impara il sanscrito da sola per leggere direttamente la Bhagavad Gita, che per Simone aveva un'importanza straordinaria, pari a quello del Vangelo. Ecco, quindi è una donna certamente di un'intelligenza superiore. Ma possiamo dire che è una donna che contiene dentro di sé le due grandi passioni del Novecento, che sono la politica e la scienza. Simone Weil fu anche un esponente del mondo sindacale, fu un attivista di sinistra per buona parte della sua vita. Ecco, secondo me questa donna è proprio emblematica per la situazione spirituale dei nostri giorni. Perché partendo da posizioni agnostiche, lei mette in atto un cammino ascetico e mistico tra i più rigorosi, tra i più alti, fino a sperimentare dentro di sé la presenza di Cristo. E questa donna, tanto unita a Cristo, sceglie di non entrare nella Chiesa. E perché fa questo? A causa del disagio, dell'intelligenza che abbracciare la dottrina cristiana, la dottrina cattolica, così come si è configurata, comporta. E difatti lei diceva spesso: quando leggo il catechismo mi sembra di non avere nulla in comune con la religione che vi è esposta. Ecco, in conclusione io dico che questo disagio dell'intelligenza avvertito da Simone Weil è comune, a mio avviso, a molte donne, a molti uomini dei nostri giorni, perché la funzione propria dell'intelligenza esige libertà. Questo è quello che manca nell'attuale configurazione della Chiesa Cattolica. Ecco, occorre fare propria la grande lezione di Simone Weil e occorre per questo motivo giungere a una rifondazione della fede. Domani incontreremo un altro immenso testimone, il cui nome è Dietrich Bonhoeffer, il pastore protestante che, dietro ordine personale di Hitler, venne impiccato il 9 aprile del 1945. E con queste parole Vito Mancuso vi dà la risentirci a domani sera. Grazie.